Il Sermone sul Monte è certamente uno dei brani più conosciuti dei Vangeli perché, oltre a degli insegnamenti morali da nessun altro mai impartiti nella storia, esso contiene la contestazione di Gesù relativa all'insegnamento millenario di coloro che istruivano alla legge di Dio. Tale confutazione è così espressa: voi avete udito che fu detto, ma io vi dico. Se riusciamo a leggere senza presupposti, occorre riconoscere che Gesù, come uomo, ha avuto un bel coraggio a contestare i teologi suoi contemporanei così apertamente, ma, essendo egli anche figlio di Dio, la sua opposizione era doverosa, visto che i sacerdoti di allora avevano travisato il volere di Dio. Forse le correzioni di Gesù all'errore interpretativo dei farisei in merito alla Torah sono chiare a tutti. Tuttavia, una precisazione di Gesù mi ha lasciato sempre in sospeso. Si tratta del comandamento di non uccidere. Ecco cosa ha detto Gesù in merito. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo, sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello, stupido, sarà sottoposto al Sinedrio. E chi gli avrà detto, pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. MT 5.2.1.22. Considerando seriamente l'insegnamento di Gesù, si rimane un poco confusi. Mi chiedo, infatti, chi non si sia mai adirato contro il prossimo senza motivo, o chi non abbia mai dato al prossimo dello stupido o del pazzo. Per Gesù simili errori erano passibili con l'essere giudicati dalla legge o da un tribunale. Ma a farmi più effetto è che Gesù consideri degno della morte eterna chi avrà dato al fratello del pazzo. Se questa fosse la legge in vigore nella nostra società, ci sarebbe molto più posto nel mondo e meno all'inferno. Dirò di più, se questa fosse stata la legge civile del popolo ebraico, pochi sarebbero sopravvissuti, dato che i profeti dell'Eterno, per la maggioranza, erano ritenuti pazzi. 2 Re 9.1.1. Come comprendere allora l'insegnamento di Gesù? Non certamente considerandolo un semplice insegnamento etico secondo il quale gli uomini devono parlare senza offendere il prossimo. Questo è uno sbaglio molto comune nell'interpretare l'insegnamento di Gesù. Infatti, di fronte all'ordine di Gesù a porgere l'altra guancia, la quasi totalità dei credenti pensa di non dover intralciare, sempre e in ogni occasione, chi compie il male. Ma l'ordine è di non essere di ostacolo a chi ti perseguita a causa della tua fede. Infatti, nei casi giudiziari, vi è il diritto di far valere le proprie ragioni. Cosa voleva intendere Gesù intimando a non dare del pazzo al prossimo per non andare nella perdizione eterna? È comprensibile l'essere giudicati se ci si adira senza motivo con il prossimo? O l'andare davanti al tribunale se gli si dà dello stupido? Ma andare in un luogo di tormenti per l'eternità solo per avergli dato del pazzo sembra proprio una esagerazione. Eppure, comprendendo ciò che Gesù intendeva dire, ogni sua parola è sacramentalmente vera. Prima di tutto, al fine di afferrare il significato delle parole di Gesù, occorre considerarle da un'altra prospettiva, a noi poco consueta, secondo cui le realtà celesti sono molto più importanti delle realtà umane. A Gesù, perciò, interessa molto di più ciò che appartiene allo spirituale ed eterno, di ciò che è terreno e limitato. Infatti, mentre i farisei, in merito al comandamento di non commettere l'adulterio, si fermavano all'atto fisico in sé, Gesù considerava infrazione all'ordine divino anche un solo atto del pensiero. Così, ciò che Gesù sta insegnando, in merito al comandamento di non uccidere, va oltre l'atto fisico di togliere la vita al prossimo, vedendo tutta una serie di colpevolezze derivanti dal un atteggiamento spirituale. Gesù quindi non sta affermando che chi si adira contro il prossimo per ragioni umane, meno come per esempio quando si riceve un torto o meno, deve essere sottoposto al tribunale. Ma se l'offesa è fatta per ragioni spirituali, allora la cosa è seria. Come si è detto, per Gesù le ragioni spirituali sono più importanti di quelle umane e terrene. E, essendo le cose spirituali vere ed eterne, quelle appartenenti al Dio Trino e a Cristo, è evidente che Gesù si riferisce ad una offesa in merito alla fede posseduta individualmente. Questo significa che quando un credente testimonia la propria fede in Cristo, se l'ascoltatore si adira o lo offende, dandogli dello stupido o del tazzo, Dio ritiene quest'ultimo e ha ragione meno severamente responsabile e colpevole. Questo è il senso della dichiarazione di Gesù in merito al comandamento di non uccidere. Mentre per i farisei era sottoposto al tribunale chi toglieva la vita ad una persona, Gesù, come per il comandamento dell'adulterio, reputava degno del tribunale anche solo chi si fosse adirato. A questa sua affermazione, però, egli aggiunse altre due ragioni da non sottovalutarsi: dare dello stupido o del pazzo. Considerati nell'ottica spirituale, questi due termini ci offrono una maggiore rivelazione in merito alla severità di Dio e alla responsabilità dell'uomo. Questo è ancora più evidente se si tiene conto di un'altra differenza: mentre offendendo con l'appellativo stupido si compare di conseguenza davanti a un tribunale, per dando del pazzo si finisce all'inferno. Come mai? Considerati i presupposti di Gesù, la ragione è abbastanza semplice. Se chi ascolta il messaggio d'amore di Cristo si adira, è certamente riprovevole e ne subirà il giudizio. Se invece dà dello stupido al proprio interlocutore, giustamente sarà giudicato da altre persone che hanno posto fede in Gesù. Ma se nell'ascoltare l'Evangelo si ritengono pazzia le parole udite e folle la persona dalla quale esse sono uscite, allora non vi è più speranza e la condanna eterna è la sola cosa che ci si possa aspettare. Una conclusione questa completamente in armonia con tutta la scrittura, in modo particolare con un'altra dichiarazione di Gesù, secondo la quale agli uomini saranno perdonati tutti i peccati, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè il volontario rifiuto ad arrendersi davanti alla convinzione di peccato prodotta dallo Spirito di Dio. Tale peccato è imperdonabile perché, oltre a ricusare l'opera dello Spirito, è corrispondente all'accusare di follia il messaggero mandato da Dio. In merito, vi è da aggiungere una cosa tanto seria e delicata quanto purtroppo vera e visibile per chi crede nel Dio della verità. Le conseguenze per chi rifiuta il messaggio del Vangelo, disprezzandone sia il contenuto sia il portavoce che lo reca, non saranno solo visibili nell'aldilà, ma anche qui sulla terra. Questo aspetto dovrebbe essere rimarcato molto di più da parte di coloro che predicano l'Evangelo a causa della tendenza a non rendere attuale il messaggio di Dio qui sulla terra. Penso spesso a un'espressione verbale del salmista: «Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi!» SL 27.13. Che bello! Il salmista migliaia di anni fa credeva in un futuro felice. Per chi aveva fede in Yahweh, il Dio di Israele, credeva che in cielo vi sarebbe stato un premio. Ma si aspettava anche di vedere nel corso dell'esistenza terrena l'opera di Dio a suo favore. Così, essendo la fede del credente di oggi solo futura, sarebbe una misera fede, non in grado di compiere né di vedere l'opera di Dio. Dunque, quali sono le conseguenze di chi si arrabbia con un ambasciatore dell'Evangelo, accusandolo di stupidità e pazzia? Sono per certo maggiori di quanto non si pensa. Esporrò alcune mie esperienze per darne solo un cenno. È da premettere però che non è giusto e neppure possibile trarre sempre le stesse conclusioni dai diversi eventi della vita. Ma neppure lo è evitare di farlo. Ecco il primo episodio. Esponevo il Vangelo ad una coppia di sposi che da tempo mi conoscevano. Come spesso succede, nell'avvertirli lo Spirito di Dio parlava loro. Notavo che non restavano indifferenti al messaggio. Mi aspettavo una reazione. Una qualsiasi reazione, ma non certamente le parole uscite in seguito dalla bocca del marito. «Se un giorno dovessi avere un figlio come te, preferirei che morisse o non fosse normale». Le parole mi colpirono, non tanto per l'evidente offesa, perché ormai ero e sono abituato ad offese ben peggiori, ma capivo che la dichiarazione saliva dal cuore. Oggi avrei interceduto presso Dio perché perdonasse tale reazione, Ma allora ero giovane e tornai a casa con un peso nel cuore. Passò un po' di tempo e la moglie rimase incinta. Tutto andava bene, lei attendeva l'evento felice e lui era soddisfatto perché un solo figlio gli sembrava poco. Mancavano pochi giorni al parto, quando la moglie improvvisamente non sentì più i movimenti del bambino. Era forse morto? All'ospedale confermarono i dubbi della mamma, constatando che il bambino, nel girarsi preparandosi al momento della nascita, fu strangolato dal cordone ombelicale. Ovviamente non dissi nulla, ma ancora oggi porto nel mio cuore il tremendo dubbio che Dio abbia punito il marito esaudendolo. Passò un poco di tempo e la donna restò nuovamente incinta di un bimbo che nacque sano, fisicamente. Però, durante lo sviluppo, il bambino rivelò una forte tendenza omosessuale e, in seguito, convisse con un uomo nonostante l'immenso dolore del padre e della madre. Tutto fu un caso? Mi sembra molto impossibile, anche perché il caso non esiste. Personalmente, ne ho ricevuto ancora una volta conferma che con Dio non si scherza. Chi disprezza l'Evangelo, in un modo o nell'altro, ne porta le conseguenze. Questo è certo, certissimo, anche se, nel valutare le vicende della vita, è possibile sbagliare. L'altro esempio scaturisce da un mio ricovero all'ospedale. Avevo una fastidiosa ernia, per la quale fui operato. Durante il ricovero ricorreva la festività dell'8 dicembre, la festa cattolica dell'Immacolata Concezione. In quel giorno il sacerdote andò dai malati perché baciassero lo stensorio, ma a tale richiesta io rifiutai. Il mio gesto in poche ore fu conosciuto in tutto il mio paesino. Così mia madre incontrò una donna che le disse: «Se io avessi un figlio del genere mi vergognerei». E comprensibile il dispiacere di mia madre che non era credente. Ma, mentre ora sono stimato dai miei compaesani per la mia serietà, il figlio di quella donna è un poco di buono. L'ultimo esempio viene dal lavoro. Nella fabbrica dove lavoravo venne a prestare servizio una donna alla quale parlai subito dell'Evangelo e credette in Cristo, poiché testimoniava in casa, al marito. Anche lui con me operaio nella stessa fabbrica, questo mi diede del pazzo e minacciò di chiamarmi in giudizio davanti ad un avvocato. In seguito lasciò la moglie per andare con un'altra donna. Passarono vari anni e ricevetti una telefonata di una signora a me sconosciuta, che chiedeva se potevo parlare al funerale del marito. Con mia grande sorpresa, il servizio funebre, al quale fui chiamato a predicare l'Evangelo, era dell'uomo che lavorava con me e che mi accusò di pazzia a causa della mia fede. Il Dio dei cristiani è veramente grande. È saggio quindi temerlo. È saggio ancora di più non dire del pazzo a chi predica l'Evangelo, perché se ne trae solo del vantaggio. Luglio 2008. Bellero.